La situazione è diversa dall'altra volta perché stiamo affrontando l'emergenza Covid tenendo aperto praticamente tutto, dalla specialistica ambulatoriale alla chirurgia programmata. Naturalmente, ovviamente all'urgenza, questo l'abbiamo fatto anche durante naturalmente i mesi della cosiddetta prima ondata oramai. E quindi la differenza è lo sforzo che si sta facendo, che si era programmato poi in realtà anche per tempo quest'estate, è proprio cercare di affrontare questa nuova situazione, che è una situazione sicuramente difficile per l'aumento dei ricoveri giornalieri, ma che fino adesso ha visto insomma sostanzialmente un'ottima tenuta del sistema, anche se naturalmente dovremo capire se le misure che sono state prese una settimana fa cominciano ad avere effetto nei prossimi giorni. E poi c'è ovviamente urgenza anche di mettere in essere anche le prossime, vedremo quali saranno quelle per la nostra regione, perché naturalmente il flusso dei ricoveri giornalieri tenendo aperto tutte le altre attività, l'attività ordinaria, è un po' la scommessa che stiamo facendo. Le chiedo, spostandoci con un focus sul personale sanitario, in questo momento qui la situazione del personale sanitario qual è, se ci sono state nuove assunzioni in vista appunto del ritorno della pandemia? Sì, cioè, all'ASL, io ho dato dell'ASL, ma anche il Policlinico ha fatto la stessa politica, dal 31 all'ASL ci sono 650 infermieri in più, quindi si è continuato ad assumere. È chiaro che teoricamente non bastano mai, diciamo così, cioè si levano ovviamente sempre le preoccupazioni, perché naturalmente più c'è pressione, soprattutto per esempio nei reparti di terapia intensiva e subintensiva, dove il rapporto tra personale e diciamo persone ricoverate è alto ovviamente, però devo dire insomma l'azienda appunto ha avuto 650 infermieri dal 31 di gennaio e c'è soprattutto in vista questo concorso che abbiamo in maniera previdente anticipato di un mese e mezzo la scadenza, che dovrebbe finire il 18, credo che siano migliaia di persone che sono presentate, che è un concorso proprio per personale infermieristico e che si conclude il 18 di novembre, e da lì potremmo attingere ulteriormente delle altre figure, così come si stanno utilizzando gli specializzandi, si stanno assumendo gli specializzandi medici fin dal quarto anno, quello era una norma prevista dal decreto Calabria, se ricorda, e possono essere appunto assunti. Diciamo che lo sforzo è continuamente ormai di ricercarli, di poter assumere, ma quel concorso insomma ci dovrebbe dare una grossa mano per poter tenere un livello adeguato all'interno dei nostri ospedali di personale, tenendo conto naturalmente del fatto che l'Italia ha purtroppo un problema un po' strutturale che viene da lontano, sia sul tema dei medici sia sul tema degli infermieri. Basta vedere insomma quali sono i rapporti di infermieri per abitante rispetto anche ad altri stati europei soprattutto.